as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e Rose, la trasmissione che normalmente parla di metalmeccanici, ma non solo. Faremo anche una puntata, spero prima possibile, in cui presenteremo una grande artista di Bologna. Adesso vediamo se riusciamo a farlo. Ci saranno anche altre puntate interessanti, ma oggi non parliamo di metalmeccanici. Oggi parliamo di un settore che in questo momento sono all'avanguardia in Italia, e non solo in Italia. Parliamo del settore logistica e parliamo di alcuni compagni delegati che sono venuti a Bologna, all'Assemblea Nazionale Regionale di marzo. Ho avuto la fortuna di incontrarli tutti lì e sono venuti in tanti, hanno fatto 2-3 macchine da Milano e sono i compagni della FILT dell'UPS di Milano. Loro sono della sinistra sindacale, hanno una posizione molto molto, sentirete dall'intervista che gli ho fatto, molto combattiva, molto conflittuale con la burocrazia della FILT, che obiettivamente sì, io non è che voglio sparare sulla Croce Rossa, ma la FILT in questi anni ha veramente perso tanti tanti colpi, non è stata capace di affrontare quello che stava accadendo nel mondo della logistica, non ha capito quello che succedeva nel mondo delle cooperative, e sentiremo la posizione dei nostri amici e compagni. Abbiamo intervistato Forlano, che è anche un dirigente nazionale della FILT, che era insieme a loro, diciamo, è uno dei leader sindacali della sinistra della FILT dell'UPS di Milano. Non è l'unico, ma è uno dei leader più importanti, riconosciuto da tutti i facchini dell'UPS come, e degli autotrasportatori dell'UPS come tra uno dei compagni più importanti, che ha costruito tantissimo a Milano ed è riuscito veramente a fare delle battaglie che sono diventate storiche in quel mondo. Ecco, adesso ascoltiamo un pezzo bellissimo, poi l'intervista ai delegati dell'UPS, della FILT di Milano, e poi le conclusioni. A dopo. Solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satan dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad. Hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad. En su casa no faltó el pan que me van a comprar. No worry, me absolute hands every morning. No worry, me a hustler's food is coming. No worry, Babylon nanana, stop we growing. No worry, be you. Si gira derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa, pero aquí en el porrio no dura niente. Están vacíos por dentro y aseguro ni lo entienden. Piden unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así amplían capital. Piden unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad. Han creado una historia para cara que te la creas nada más. Y piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá. Y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Y prenden fuego al sudor de mi frente. Y prenden a los artesanos cuando venden. Prenden en la calle al indigente. Y prenden al que no vela sus intereses. Venden solamente lo que ellos quieren. Y venden a su madre por 20 billetes. Sienten ser superiores a otros seres. No van por el camino, les guió Mefistófeles. No worry, no worry. Solutions every morning. No worry, no worry. Me a hustler, so food is coming. No worry, no worry. Babylon, na na na, stop we growing. So no worry, no worry. Be you, the moment. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá. Y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Allora, siamo qui con, secondo me, tra l'avanguardia per quanto riguarda la logistica oggi in Italia, nel nord Italia sicuramente, stiamo parlando dei delegati della Filt, dell'UPS di Milano. Abbiamo qui Antonio Forlano, siamo in questa assemblea dell'area del giornale di marzo e ho la fortuna di incontrare quasi tutti, si crede un bel po' oggi, sì. E chiediamo a loro... come sta andando? Noi abbiamo seguito in passato quello che avete fatto su varie questioni, il contratto nazionale, la vostra posizione, le battaglie fatte all'interno dell'UPS. Raccontateci, insomma, cosa accade oggi all'UPS, cosa accade nel vostro settore della logistica, visto che in questo momento è una situazione un po' difficile. Sì, è una situazione anche difficile per la situazione economica generale, dove nel settore merci le conseguenze sono immediate. Ed è vero, noi siamo molto attivi su fronti generali come per esempio il contratto nazionale, problemi di salario, come il problema dei diritti, e sul tema dei diritti noi ci siamo distinti per lunghi anni, anzi decenni direi, su una questione, quella di unire i diretti di UPS e quindi i lavoratori solitamente impiegati nelle attività amministrative che ogliano il sistema amministrativo e io sono uno di quelli, da 30 anni lavoro per UPS, con tutta quella realtà intorno ad UPS che in realtà sono quelli che producono i profitti di UPS. Quindi ci sono quelli che ogliano e quelli che producono, e quelli che producono in realtà sono quelli che hanno meno diritti, che sono gli autisti e i magazzinieri. E con loro abbiamo da lungo tempo portato avanti una rivendicazione che dovrebbe essere banale per un sindacato di classe, quello dell'unificazione e dell'internalizzazione, ma sembra che per lunghi anni questo tema non è stato di gradimento, direi, visto il disinteresse completo del sindacato, a diventare invece un elemento centrale propagandisticamente per tutti, ma e politicamente per tutti, ma poi fattivamente diciamo che siamo soltanto noi sul nostro pezzo, che è l'UPS, perché il tema riguarda anche altre società multinazionali, cioè tutto il settore della logistica, che ha intrapreso un po' una discussione su questo, perché la magistratura, e non la lotta di classe, ma la magistratura ha messo in evidenza il problema dello sfruttamento nel settore di lavoratori che sono usati dalle multinazionali attraverso, come sono state chiamate, società serbatoio, attraverso le quali le multinazionali fanno i loro grandi profitti e i lavoratori, se van bene, portano a casa lo stipendio contrattuale. Ora, di tutto questo è successo che anche UPS è ingappata nel problema dell'evasione, dell'elusione e dello sfruttamento, e noi ci siamo inseriti nel rivendicare quello che normalmente un sindacato dovrebbe fare, l'internalizzazione. Abbiamo iniziato con uno sciopero il 19 di dicembre, nonostante la richiesta della FILT, della nostra organizzazione sindacale, di moderare un po' l'iniziativa per stare a guardare quello che la procura e poi un possibile processo avrebbe detto. Ecco, su questo noi non siamo d'accordo. Noi non dobbiamo stare a seguire quello che dice la magistratura, o meglio quello che dice il processo di come va a finire. Noi dobbiamo prendere tutto ciò che la magistratura dice, che sono le stesse cose che abbiamo detto noi per 10 anni, che quella realtà, quel modello di attività produttiva è un modello malsano a prescindere, e pertanto, al di là di quello che sono le conclusioni di un giudizio, semmai ci sarà un giudizio di un processo, noi dobbiamo rivendicare e conquistare l'internalizzazione. Ora, questa cosa qui è un po' complicata, perché effettivamente il sindacato viene chiamato dalla multinazionale, ma soprattutto dalle varie società che ci sono dentro, per dire ok, riduciamo le filiere. E qui sorge il nostro primo atto banco di prova, in cui noi dobbiamo fare in modo di tenere la posizione ferma e non semplicemente ridurre la filiera. E questo è un bel problema, perché qui ci sono posti di lavoro, perché una riduzione della filiera non significa una riduzione dell'appalto, perché non sono appalti in realtà, sono contratti di servizio, e nei contratti di servizio vince il rapporto di forza. Quindi o questo sindacato mette in campo i rapporti di forza, oppure avremo dei problemi, perché noi che siamo sul pezzo e vogliamo l'internalizzazione, e sì, abbiamo un certo rapporto di forza dentro la nostra azienda, ma non possiamo confidare soltanto sul nostro rapporto di forza in azienda, perché è un problema di sistema, non è un problema solo aziendale. Quindi è una politica di rivendicazione generale, quindi con un supporto del sindacato a livello generale, di un sindacato che è presente su tutte le realtà, queste internalizzazioni sono facili da poter conquistare. Anzi, c'è da dire una cosa che è conclusiva: noi siamo sull'area di Milano, nell'area Milano è stato indicato come su tutta la provincia milanese, lombarda fondamentalmente, si concentra il 40% dell'e-commerce italiano. Cosa sarebbe se un sindacato di classe, che tira fuori le palle, diciamolo, mette in campo una rivendicazione complessiva per tutti i corrieri? E la BC, non ci vuole molto, i Teamsters americani, quelli proprio dell'UPS, lo hanno dimostrato. È bastato mettere sul tavolo la rivendicazione di avere il 40% di aumento di salario, e l'hanno portata a casa senza fare un minuto di sciopero. Quindi i rapporti di forza ci sono, basta applicarli. Ecco, ciao, io sono Cristian, un lavoratore delegato in UPS per una società terza. Allora, come noi viviamo questa situazione? Al di là, chiariamo, tu sei di una società terza, cioè non sei assunto dall'UPS, no, ma lavori per l'UPS, con un'altra società. Prestiamo servizio a UPS, certo. Quindi, però in sé ci sentiamo UPS, perché comunque, certo, portiamo la divisa dell'UPS. Portiamo anche i loro pacchi, portiamo la loro tecnologia, quindi uno strumento che ci permette di lavorare, alla quale ovviamente anche la magistratura lo ha dichiarato, lo ha detto. Voi siete controllati con quel sistema, di conseguenza dovreste essere assunti, quindi direttamente UPS. Noi come lavoratori, perché in primis di essere un delegato sono anche un lavoratore, come vivo questa situazione e come cerchiamo anche di cambiare questa situazione? Ovviamente ci troviamo degli ostacoli. Il primo ostacolo come delegato è che vedo un sindacato che non condivide, che non è più agguerrito e che sembra che faccia più la parte di quella che cerca di mediare e portare a casa un piccolo risultato, cosa che non è una cosa corretta che deve essere fatta. E grazie all'alternativa, quello che noi viviamo come un'area di alternativa dentro la FIL-CGIL, che ci permette di poter andare avanti e rivendicare una cosa che ha detto il collega Antonio, una cosa importantissima, l'internalizzazione, che è quella che ci permetterà di porre fine a tutte queste cose marce che ci sono nei subappalti, cooperative e tutti i consorzi, perché una ruota che girerà finché non si porrà un limite, una che non finiscano. Come viviamo la situazione? La viviamo che tutti i giorni siamo in piedi di guerra, tutti i giorni, ovviamente è in contrasto con la FILT, con i burocrati. È dura, è difficile, ma non impossibile. E avendo i lavoratori che prendono coscienza che c'è un'alternativa dentro il sindacato, loro sono pronti a combattere. Dobbiamo solo crescere. In UPS si vive adesso, in questo momento, perché le cose sono calde, di nuovi cambiamenti, un nuovo vento che comincia a soffiare. Bravi, io vi voglio bene proprio per questo motivo qua, perché è molto semplice, no? Entrare in un sindacato di base, dici vabbè la CGIL non funziona bene, invece voi state dimostrando che anche all'interno della FILT, che è un sindacato che ha fatto tantissimi errori, riuscite a fare delle battaglie importanti. Qua abbiamo... Sono Jason, delegato in UPS, sempre di Società Terze, dentro della FILT CGIL, sindacato confederale. E sono da 10 anni in questa azienda e ho visto di cotte e di crude, ne ho subito anch'io sulla mia pelle. Abbiamo visto che questo sistema è cresciuto tantissimo, non è più un sistema marginale di accessorio, è proprio un settore il quale macina profitti, e quindi di conseguenza quello che chiedono i lavoratori, soprattutto in questo periodo in quale stiamo attraversando di alte dell'inflazione alle stelle, è avere un salario decente, dignitoso. Le nostre organizzazioni sindacali ci danno delle percentuali, ci mettono delle parole tecniche. Noi vogliamo sapere quanto sono disposte a rivendicare, vogliamo un programma rivendicativo chiaro. Noi abbiamo fatto un calcolo un calcolo di quello che abbiamo perso di potere d'acquisto, stiamo parlando di mediamente dai 200 ai 300 euro al mese dopo, durante questo periodo di Covid, di pandemia. Quindi un aumento di salario dignitoso sarebbe almeno 450 euro, 500 euro minimo, per recuperare quello che si è perso, per avere un salario, un aumento salariale degno di questo nome. Questo dobbiamo portare avanti, innanzitutto sulle questioni economiche, e poi ci sono anche le questioni normative che da 7-8 anni, non voglio esagerare, forse così, la questione normativa del rinnovo contrattuale non viene portata avanti, è tutto congelato. I sistemi cambiano, le procedure cambiano, ci sono nuove procedure appunto che vengono inserite per agevolare il cliente, perché il cliente è alla base dei servizi, delle consegne, dei pacchi puntuali, dei pacchi che arrivano al giusto orario. Quindi chiediamo anche noi, così come le aziende fanno questi profitti da capogiro, che la ricchezza venga distribuita ai lavoratori. Questo è un punto importante, la lotta economica. Noi come area sindacale crediamo che, ripeto, sia un punto fondamentale nella nostra lotta. Ciao, sono Omar, RSA di un'agenzia che lavora a Roma, sempre per conto UPS. Allora, più che altro io voglio fare un invito a tutti i lavoratori a prendere coscienza di tutta la situazione che sta accadendo oggi come oggi in UPS, ma anche nelle altre filiali tipo Bartolini, DHL, tutta la logistica. E dire che il sindacato siamo noi lavoratori, siamo noi che dobbiamo prendere per le mani le corde, prendere per le mani le corde e fare funzionare una lotta di classe. Grazie. Prego. Grazie ragazzi, alla lotta. Alla lotta. abbiamo ascoltato bellissimo il pezzo Penseremos, che è l'augurio che io faccio ai compagni dell'UPS nella loro battaglia per la internalizzazione. Perché dico questo? Perché avete sentito, chi ha sentito l'intervista, se no altrimenti la potete trovare sul podcast, sulla pagina Facebook Il Panele Rose, ci saranno tutte le puntate messe in podcast. Perché loro hanno parlato, insomma, di quello che stanno facendo, di quello che hanno fatto. I vari delegati, iniziando da Forlano, anche gli altri che sono intervenuti, hanno sollevato tutta una serie di questioni. Il fatto che loro comunque la battaglia la fanno all'interno della FILT, della CGL, che è la battaglia principale che loro rivendicano, e sono arrabbiati perché la FILT secondo loro non la sta facendo come dovrebbe fare, quelle delle internalizzazioni. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che nel mondo della logistica abbiamo intervistato anche i Corrieri Amazon, abbiamo intervistato anche in passato i Sicobas della logistica. Nel mondo della logistica noi guardiamo tutte queste grandi aziende, no? Se non facciamo i nomi per non essere denunciati, però tutte queste grandi aziende, ma poi le persone che lavorano lì dentro non sono pochissimi dipendenti diretti, la stragrande maggioranza sono questi contenitori, così come li ha chiamati la giustizia, perché è vero quello che dice Forlano, cioè noi non stiamo facendo il nostro dovere come sindacalisti, e spesso interviene la giustizia perché ci sono dei soprusi, delle situazioni di illegalità così forti che interviene la giustizia con condanne severe, quando in realtà noi dovremmo fare una battaglia sindacale nel mondo della logistica per evitare che accadano queste cose. E la prima battaglia da fare è quella delle internalizzazioni, riportare tutti all'interno della casa madre per evitare l'appalto, del subappalto, dell'appalto e tutti i casini che succedono nelle cooperative. Queste sono rivendicazioni importanti. E poi c'è la questione salariale. Non dimentichiamo, e questo ci può unire tutti, sul fatto che la logistica in questi anni ha fatto guadagnare a tutti questi miliardari che hanno investito nel mondo della logistica tantissimi soldi e non sono stati ridistribuiti come dovevano essere. Ora, queste sono le battaglie principali che loro porteranno avanti e noi saremo sempre al loro fianco. Certamente serve una CGL diversa o un sindacato diverso in generale, più conflittuale, che si impegni veramente a fare una lotta di classe per far sì che si portino dei risultati reali e si vada verso una situazione migliore per i lavoratori della logistica, i quali sono veramente in una situazione davvero triste per quello riguardo, soprattutto per quello che riguarda gli appalti e i subappalti. Ecco, io vi lascio, questa è stata una bellissima intervista dal mio punto di vista, ho imparato tantissimo dai compagni, li conosco da tanti anni, li ho visti crescere e sono contento di averli intervistati finalmente. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata con diverse novità. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.